24 mattino di Alessandro Milan. 7:21 minuti, eccoci cari ascoltatori in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Il tema del nostro sondaggio, torniamo a parlare di immigrazione, di Europa. La domanda che vi poniamo è: l'Unione Europea secondo voi sottovaluta il problema dell'immigrazione in Italia? Sapete che ci sono tensioni con il ministro Maroni che in un momento, non so, di uno sfogo ha detto forse allora conviene uscire dall'Europa. Ieri il viceministro Castelli della Lega, l'abbiamo sentito, ha evocato la possibilità anche di utilizzare le armi. Per ora no, ma chissà. Insomma, questo è il clima. Di immigrazione parleremo alle 8:30, votate su Radio 24 punti il nostro sondaggio. E da cosa iniziamo? Dai giornali in edicola. In primo piano. Mercoledì 13 aprile, la maggior parte dei quotidiani si concentra sulla notizia politica del giorno. Oggi dovrebbe esserci l'approvazione del processo breve dopo una lunga maratona in aula. Sfida finale sul processo breve, così titola il Corriere. Prescrizione breve, scontro finale per Repubblica. Battaglia sul processo breve per La Stampa. Stiamo parlando di approvazione alla Camera, quindi in prima lettura. Per il Fatto Quotidiano, bruciati vivi, qualcuno pagherà? Ci sono tutte le foto delle vittime del disastro ferroviario a Viareggio. Per il Giornale, fermate il partito dei giudici. Il Messaggero, processo breve è battaglia. Insomma, come vedete, questo tema. Chi sceglie l'Europa è libero, in maniera molto dura. Ha ragione Maroni, l'Europa vada all'inferno. Questo è il titolo di Libero. Anche Avvenire però, crepe nel muro delle Alpi, Barroso, sfida da condividere, e Bertone, il cardinal Bertone, l'Unione Europea deludente. Vedremo altre aperture. Il Sole 24 Ore si concentra invece su Fiat, che sale al 30% in Chrysler. Marchionne, la nostra quota potrebbe anche superare il 51%. Novità dunque per quel che riguarda Fiat. Io voglio iniziare come segnalazioni, due segnalazioni, entrambe coinvolgono Facebook. Sono diventato Facebook addicted. No, state tranquilli, non succederà. Allora, quei gemelli perfetti sconfitti da Zuckerberg. Su Il Corriere della Sera, a pagina 25, la parabola dei gemelli Tyler e Cameron Winklevoss, coloro che dicono siamo noi i veri inventori di Facebook, e Mark Zuckerberg, quando eravamo al college, ci ha fregato l'idea. È una lunga causa, anche raccontata nel film celebre The Social Network. Ora però la Corte di San Francisco, il Tribunale di San Francisco, ha giudicato inammissibile un loro ricorso, per cui Cameron e Tyler, che nel frattempo sono due campioni di canottaggio e puntano alle prossime Olimpiadi, dovranno accontentarsi, tra mille virgolette, dell'indennizzo che già Zuckerberg gli concesse nel 2008, come dire, effettivamente forse avevano ragione un po' loro, un po' li ho fregati, non lo so. L'indennizzo è di 200 milioni di dollari, circa 140 milioni di euro. 140 milioni di euro. Ma loro volevano di più, nel senso, volevano dire l'idea è nostra, visto che poi Facebook adesso è quotata miliardi di euro, e quindi dicono ci ha fregato l'idea Zuckerberg. Loro, che erano degli sportivi del college, diedero questa idea a Zuckerberg, che è un po' un nerd invece espertissimo di computer. Zuckerberg che fece? Mise da parte la loro idea, ma la prese e sviluppò la sua idea, Facebook. E questi gemelli dicono, ecco, ci ha fregato, così l'idea fu rubata. Però la Corte di San Francisco ha detto non avete più diritto a nulla se non quel misero indennizzo da 200 milioni di dollari, cioè 140 milioni di euro che avete già avuto. Ora loro puntano alle Olimpiadi, non certo per denaro, credo. Allora, la seconda segnalazione di riguardante Facebook è in prima pagina di Repubblica. Vuoi essere assunto? Fai il bravo su Facebook. Federico Pace racconta di come ormai siano 7 aziende su 10 che prima di assumere una persona vanno anche a vedere se questa persona ha un profilo su Facebook e che cosa scrive. Ci sono varie interviste a direttori di personali, per esempio quello della Panini, del Giorgio Aravecchia, che dice non prenderei mai, per esempio, se devo assumere negli Stati Uniti una persona che dichiara sul proprio profilo Facebook o su Twitter di fare il tiratore scelto. Oppure una volta, racconta Angelo Alfieri, direttore risorse umane di Sofinter, un gruppo del settore dell'energia, intervistai per un colloquio un ingegnere e sul suo profilo Facebook c'era scritto: tra un anno mi trasferisco in Giamaica. Vabbè, era una battuta, si capisce, ma certo non ero ben disposto ad assumerlo. Oppure guai parlare male dei vecchi datori di lavoro. Per esempio, si rappresentano persone che dicono sono state magari un lungo periodo in azienda, appena vanno via sparlano e dicono il peggio del peggio dei loro vecchi datori di lavoro. Questo, dice sempre il responsabile delle risorse di Sofinter, è un pessimo segnale. Preferisco una persona che è stata solo 3 settimane in un'azienda e scrive: esperienza breve ma intensa, a chi rimane invece più a lungo poi inveisce con volgarità contro il precedente datore di lavoro. Dunque, occhio sempre a quello che si scrive su Facebook. Ci fermiamo e ripartiamo poi dalla giornata politica e non solo. In primo piano. Dovrebbe essere il giorno questo dell'approvazione, dopo una lunga maratona negli ultimi 2 giorni alla Camera, approvazione alla Camera del cosiddetto processo breve, che è il tema politico su cui si concentrano le aperture di molti giornali. Donatella Stasio sul Sole 24 Ore, pagina 15, racconta la giornata parlamentare, che ha avuto anche i suoi momenti di colore, i suoi momenti di contestazione, i suoi momenti di ostruzionismo. Alfano: a rischio lo 0,2% dei processi. Questa è la cifra che il ministro, sollecitato dall'opposizione a chiedere quanti processi con questo nuovo processo breve, cioè il processo breve vuole dire una legge che dà dei tempi certi per il primo grado, l'appello, la Cassazione. Se non si rispettano questi tempi, il processo va a estinguersi. Questo è il succo del processo breve. Ebbene, secondo Alfano, sono lo 0,2% dei processi che con questa legge, su 3.290.000 procedimenti pendenti, solo lo 0,2% con questa legge appunto finirebbe. E c'è da dire che l'opposizione chiede: e allora perché, se solo per lo 0,2% fate questa legge? L'accusa è quella di fare una legge che valga anche per il processo Mills a Berlusconi. Per la verità, il Messaggero a pagina 2 racconta quali alcuni esempi di processi che andrebbero per esempio a finire. Il processo Cucchi: niente giustizia anche per Alessio e Flaminia, che sono 2 vittime di un pirata della strada. Anche una parte delle truffe Lady ASL, questi processi a Roma ovviamente. A Firenze saranno circa 400 le cause a rischio. C'è anche il giallo sulla vicenda su alcuni processi importanti, le vittime della casa dello studente, il terremoto all'Aquila, e le vittime della strage di Viareggio. Il Fatto Quotidiano mette in prima pagina questo titolo: bruciati vivi, qualcuno pagherà, con le foto, tutte le foto delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Per la verità, il ministro Alfano ha detto: è impossibile che questo processo breve si applichi a quel procedimento dove ci sono reati gravissimi, dunque la prescrizione scatta nel 2032, e uguale anche per la vicenda di altri procedimenti come quello dell'Aquila. Invece i familiari delle vittime temono che possa applicarsi questo processo breve e far saltare questi processi. Beh, questo insomma dovrebbero essere cose anche abbastanza tecnicamente indiscutibili, ma in Italia non si capisce, ognuno dà la versione anche su cose che, codice alla mano, dovrebbero essere abbastanza chiare. Io no, ovviamente non ho la risposta. Se non si mettono d'accordo il guardasigilli Alfano e l'opposizione, figuratevi se posso saperlo io. Allora, tra l'altro, la giornata è stata caratterizzata da che cosa? E questa giornata, anche quella di oggi in cui parliamo, da un'altra maratona, forse alle 20 ci sarà la votazione finale. Il codice Verdini, titola il Corriere, cioè Verdini è colui che in aula organizza insomma le presenze, dicendo: nessuno può essere assente, vietate assenze, vietati battibecchi. Addirittura si farà il Consiglio dei Ministri oggi a pranzo per permettere ai ministri di fare il Consiglio dei Ministri in un'ora e poi essere presenti, perché devono essere presenti tutti, altrimenti la maggioranza rischia di andare sotto. Tra l'altro c'è una foto, sapete che i fotografi spesso pizzicano i deputati in aula, e in questa foto ci sono Denis Verdini e Cicchitto del Cicchitto del PDL, che fanno la conta dei voti, e c'è questo numero 316 che il Corriere della Sera mette in questa foto, cioè Cicchitto e Verdini segnano questo numero a penna 316 su un foglio che hanno, come dire, siamo a quota 316 come maggioranza. Questo è il dubbio, cioè sicuramente così. Poi ci sono le foto, vabbè, insomma, di deputati pizzicati a fare altro, perché insomma, state voi seduti 12 ore. Ieri il ministro Rotondi pare che volesse uscire 2 minuti, l'hanno bloccato. Dove vai, ministro? Non può uscire neanche 2 minuti ieri dall'aula, e così sarà anche oggi. E allora c'è, beh, spettacolare, Antonio Laforgia del PD che si addormenta su Repubblica, pagina 7, il pisolino. Uno dopo 12 ore, state voi seduti 12 ore, mi addormenterei anch'io dopo 12 ore, seduti anche dopo 2. Il cruciverba, c'è chi fa il cruciverba, Antonio Martino del PDL, che in un'altra foto invece fa il solitario sull'iPad, no? È l'iPad che è Galeotto. E poi il Corriere trova, sul Corriere trovate altri che giocano a calcio. Calcio, Sabatino Aracu del PDL, un gioco del calcio. Martino fa il solitario, per l'appunto. Gaetano Pecorella, anche lui solitario a carte, questo sull'iPad. Vabbè, ma la seduta era lunghissima. Oh, tra l'altro il Sole 24 Ore dice che c'è una lega su questo infermento. Lina Palmerini a pagina 15 racconta di una lega in cui cresce l'inquietudine, una lega che vota questo processo breve, ma insomma come voto in qualche modo di scambio, cioè in nome del federalismo, in nome dell'appoggio, bisogna digerire, mandare giù questo boccone indigesto del processo breve. In realtà Calderoli, il ministro Calderoli, intervistato dal Messaggero a pagina 3, dice: no, tutte le volte che passa qualcosa in Parlamento viene spacciato come il prezzo di uno scambio. Non è così, è una norma ragionevole, le prescrizioni devono essere fissate dalla legge, non devono essere nella disponibilità dei giudizi soggettivi. E dunque questo di noi votiamo per avere il federalismo fiscale sono dietrologie di gente che mangia pesante e dunque la notte agli incubi. Così il ministro Calderoli. Sta di fatto che però, tra l'altro c'è stato l'ostruzionismo anche di quelli del PD, ognuno che si alzava leggeva un articolo della Costituzione, questo per cercare di fare ostruzionismo alla Camera. Vedremo se oggi ci sarà qualche altra manovra di ostruzionismo. Mi dà lo spunto questo per dire che alle 8.20 ospiteremo Roberto Giachetti, che è deputato del Partito Democratico, è grande esperto di queste manovre, è responsabile dell'aula per il Partito Democratico, è unanimemente riconosciuto colui che tra cavilli del regolamento della Camera riesce sempre a scovare dei modi per fare ostruzionismo quando, secondo l'opposizione, serve. Vedremo oggi alle 8.20 cosa ci dirà sulla giornata di oggi, cosa ci dovremo aspettare. Oh, intanto un'altra grana, questo pare sia per Libero che per il Secolo XIX, è il Consiglio dei Ministri di oggi, fissato per l'appunto a pranzo. Perché in questo retroscena di Salvatore Dama su Libero, Berlusconi ha detto: la maggioranza è con me, Tremonti forse. Oggi infatti è prevista una nuova tornata di tagli che il ministro Tremonti presenterà al Consiglio dei Ministri. Il Secolo XIX lo mette a pagina 3. All'improvviso esplode la rissa tra i ministri. Tremonti, attribuito a lui, a questi non darò più un euro. E tra l'altro racconta il Secolo con Giovanni Palombo di come ieri, visto che anche il ministro Gelmini non poteva abbandonare l'aula perché bisognava stare tutti lì ancorati per il rischio di andare sotto, la Gelmini ha improvvisato una sorta di pre-riunione, pre-consiglio dei ministri con i suoi funzionari e con i suoi collaboratori lì in aula, e racconta il Secolo davanti a giornalisti increduli. Ecco lo sfogo della Gelmini: ai funzionari non taglio nulla, se ne facciano una ragione, piuttosto tagliate ai bidelli, capito? Tagliate lì, non mi importa dei sindacati, della CGIL, non voglio toccare il funzionamento del ministero. questo virgolettato del Gelmini. Per tutta la giornata, infatti, i ministri all'oscuro della convocazione del Consiglio dei Ministri, all'oscuro di quello che è il testo che presenterà oggi Tremonti. Il testo, secondo Il Secolo, è sforbiciare, tagliare sulle spese ministeriali, 7-10 miliardi. E siccome non è prevista alcuna manovrina impossibile in campagna elettorale, ecco che arrivano i tagli ai fondi e Berlusconi che raccoglie gli sfoghi di tutti i ministri, di tutti i ministri che gli dicono no, questa volta no. Staremo a vedere se oggi ci sarà un'altra giornata campale per quel che riguarda il Consiglio dei Ministri. Qualche altra piccola grana, qualcuno dice, per Berlusconi, che sarebbe davvero scorato, sfiduciato da questa politica, tanto che in questa serata di un paio di giorni fa Villa Gernetto ha detto la battuta riguardo Bush e Aznar, che mi hanno sempre detto: sapete qual è il giorno migliore della nostra vita politica? Quando abbiamo smesso di fare politica. Berlusconi che ha raccontato questa battuta, e qualcuno dice: ma allora veramente non vuole più fare politica? Chi lo sa? Ma anche se la sorpresa vera di questa cena, ci sono molti pettegolezzi su questa cena che è avvenuta due giorni fa, Berlusconi con tutti i rappresentanti, molti parlamentari eccetera, è la sorpresa raccontata da Repubblica, pagina 9, sorpresa di Pasqua per Silvio alla fine della cena: da un uovo di Pasqua di polistirolo alto 2 metri è uscita, e vi raccomando la foto su Repubblica, Charlotte Crona, modella svedese, violinista, regalata tra virgolette al premier per questa cena di Pasqua. Ha fatto un'esibizione col violino elettronico, è molto famosa per questo, si esibisce per questo, è sicuramente anche una splendida ragazza. Berlusconi ha scherzato, è stato un regalo bellissimo, mi può dare il suo numero di telefono. La russa pare che abbia detto: ma è la nipote di qualcuno? E poi alla fine Mario Mantovani, che era nostro ospite ieri all'intervista, accidenti, questa non ce l'ha raccontata, ha regalato un toro di cristallo Swarovski a Berlusconi come regalo di Pasqua, dicendo a Berlusconi: ha due palle come le tue, Silvio. Questo è il regalo di Pasqua. Il problema però, secondo i vari giornali, secondo Corriere Repubblica, è questo: ci sono per il processo Ruby due nuove testimoni. È una notizia che c'è su Corriere e Repubblica. Repubblica addirittura ci apre, fa il racconto a pagina 2-3, due nuove testimoni, due ragazze, sono Ambra Battilana e Chiara Danese, di 18-19 anni, invitate per una sola cena il 22 agosto del 2010 a Villa San Martino, in due verbali che sono ampiamente raccontati appunto da Corriere della Repubblica oggi sui giornali. Raccontano: altro che cene eleganti, le cene del Bunga Bunga erano qualcosa di molto molto hard. E da qui ripartiamo con qualche dettaglio, purtroppo, che c'è sui giornali, hard dopo il traffico. In primo piano. Feste di Arcore, spuntano due nuove testimoni, così titola il Corriere con Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, mentre Repubblica mette pagina 2-3 i verbali di queste due ragazze. Quella notte da shock a Arcore, noi volevamo solo andare via e Fede ci disse, Fede, Emilio Fede, scordatevi la carriera. I complimenti del presidente Berlusconi talmente intensi che Fede, non so se come battuta, gli disse: mangia nel piatto tuo che io mangio nel piatto mio. Questo racconto che inizia dei verbali sul Corriere della Sera di queste due ragazze, che raccontano di cena a base di barzellette sconce, molto sconce, tale da creare imbarazzo da parte del presidente del Consiglio. La selezione di queste due ragazze, raccontano, è avvenuta quando andammo da Fede, che subito si mostrò entusiasta di noi, disse: vanno benissimo, non ci richiese l'effettuazione di alcuna prova, si mostrò deciso a sceglierci come meteorine a 5.000 euro a settimana. Seguono ristorante con Fede, battute a doppio senso, esame del fondo schiena, promessa di risentirsi, e in effetti il 22 agosto ecco la cena ad Arcole. Le barzellette sconce del premier, leggo dal stralci di verbale di queste due ragazze. barzellette alle quali Fede con piccole gomitate ci spingeva a ridere nel coro di tutti i presenti che scoppiavano a ridere in maniera eccessiva e forzata. Poi il gioco della statuetta. Esce, arriva una statuetta di Priapo. Insomma, anche per chi non lo sapesse, Priapo è famoso per una parte anatomica molto sviluppata. Scrive il Corriere: a questo punto raccontiamo edulcorando la descrizione di quello che avviene. Le ragazze si dimenavano, ballavano, cantavano meno male che Silvio Cessi, facevano baciare i seni dal presidente, lo toccavano nelle parti intime, lo stesso con Fede. Eravamo scioccate in una situazione più grande di noi. E poi Berlusconi: siete pronte per il bunga bunga? E tutte sì, al che scendono nella sala. Berlusconi ci fa un palpeggiamento sul sedere, reiterato. Arriviamo nel centro benessere, io guardo la mia amica e dico: che dobbiamo fare? Disse la mia amica: dobbiamo darla? Chiara vede le ragazze ballare in maniera piuttosto volgare, vestiti da infermiera molto corti, seni molto scoperti, un frustino. Toccavano Berlusconi, si facevano toccare. Insomma, il racconto molto esplicito di queste due ragazze. Mi ha colpito anche in questo lungo racconto, così lo fornisco agli ascoltatori. Chiara, una di queste due ragazze, dice: apprendo durante il verbale solo in questo momento che l'avvocato della mia amica Ambra è un deputato. A dir la verità, non so esattamente cosa significa essere deputati e non so cosa sia l'Italia dei valori. Ecco, mi ha colpito anche questo passaggio. Troviamo ancora, per quel che riguarda la politica e non solo, una vicenda sviluppata da vari giornali, interessante. L'Unità ci dedica due pagine, ama anche Avvenire, anche Il Messaggero, un po' tutti. La deputata del PDL, Gabriella Carlucci, vuole una commissione d'inchiesta per rivedere i libri di storia, giudicati libri di storia che insegnano con troppo sbilanciamento a sinistra, troppi libri di testo comunisti. Il PDL ci vuole una commissione d'inchiesta, questo lo trovate su Avvenire, ma anche due pagine sull'Unità e anche sul Messaggero. Libri di testo comunisti, così plagiano i ragazzi, il PDL vuole un'inchiesta. Trovate molto anche nel tema del nostro sondaggio, vale a dire l'immigrazione, l'Europa. Vi chiediamo: sottovaluta secondo voi il problema dell'immigrazione in Italia? Ha fatto molto scalpore questa minaccia di Castelli, che ieri era invitato da Un Giorno da Pecora, da Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro, e che ha detto: insomma, per ora non usiamo le armi, almeno per ora sparare non si può. C'è chi chiede le dimissioni, insomma, vabbè, le solite beghe e le solite, in questo caso bisogna dire, sparate vere e proprie. Però il tema rimane quello dell'Unione Europea e di come sottovaluta, se sottovaluta, il tema immigrazione, e di questo vi chiediamo conto. Tra l'altro il Sole 24 Ore fa i conti invece di quanto ci costa l'accoglienza. Marco Ludovico a pagina 14: l'accoglienza costa 72 milioni, conti, costi, oneri dell'accoglienza, contando l'arrivo per il momento di stima di 10.000 unità e contando circa 40 euro al giorno per vitto, alloggio, assistenza sanitaria, si arriva appunto a questa somma complessiva di 72 milioni di euro. Questo l'accoglienza per ora ci è costata. Trovate molto, se volete, anche... Ah beh, no, tra l'altro sull'immigrazione interessante, voglio sottolineare che Luca Zaia, su Repubblica, pagina 13, inizia il boicottaggio dei prodotti francesi. Cari italiani, non comprate lo champagne, non comprate il formaggio Camembert. Questo ha detto Luca Zaia. In qualche modo la Francia deve capire. I dirigenti, tra l'altro, i dirigenti della Lega preparano la lista nera. La lista nera dei prodotti francesi, le ostriche immagino, lo champagne, anche le auto, non so, anche le Renault, non lo so, sì, immagino di sì, si prepara la lista nera, quindi solo gorgonzola e formaggio piemontese, dice anche Borghezio da oggi, basta il Camembert. E basta lo champagne, ovviamente. Cosa trovate ancora per concludere? Beh, per concludere, visto che è solo un minuto, trovate molto degli articoli del fatto che il presunto attentato al direttore di Libero Maurizio Belpietro in realtà non fu attentato, è stato tutto archiviato. C'era forse una persona, ma forse era un ladro, probabilmente era anche armata, ma comunque si esclude fortunatamente che volesse attentare alla vita del direttore di Libero. Concludo con Repubblica che pubblica le foto della discussa e famosa showroom, dice lui, del figlio di Letizia Moratti, il sindaco di Milano. A pagina 22, dalla botola segreta al ring di box, ecco la casa stile Batman di Moratti Junior. L'ambiente ristrutturato per essere abitato non somiglia a uno showroom, dice Repubblica, come sostiene invece Gabriele Moratti. Ci sono tutte le foto del box, del ring da box, la famosa piscina col ponte levatoio, vabbè, se volete le trovate su Repubblica. Ci fermiamo allora per il giornale radio, votate il sondaggio sull'Unione Europea e l'immigrazione e ripartiamo invece dall'onorevole Giachetti nella nostra intervista. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22 minuti. Saluto per la nostra intervista di oggi l'onorevole Roberto Giachetti. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Il Partito Democratico, con una lunga storia anche radicale alle spalle, è considerato, è segretario d'aula, considerato il re dell'ostruzionismo alla Camera, cioè colui che studia nel regolamento tutti i cavilli. È colui che, per esempio, che ha studiato la questione della lettura della Costituzione, no? Onorevole, cioè leggere gli articoli. Quella veramente non mi voglio attribuire i meriti, no, quella è un'idea del capogruppo, poi ovviamente l'abbiamo dovuta realizzare. L'avete realizzata. Però nella settimana scorsa, per esempio, ha ideato delle discussioni che poi hanno portato anche a resoconti parlamentari in cui per ore si è dibattuto su culatelli, zafferani e salami alla Camera. Ma guardi, partiamo da un presupposto. Questo è un provvedimento su cui c'è il cosiddetto contingentamento dei tempi, cioè l'analisi di questo provvedimento e il voto può essere fatto in un tempo stabilito dalla conferenza dei capigruppo e dal Presidente della Camera, a differenza di altri provvedimenti, vedi decreti, sui quali invece non si può limitare il tempo. Quindi diciamo i margini di manovra per fare quella battaglia che noi volevamo fare e allontanare il più possibile l'approvazione di questo provvedimento erano tutti da ricercare in quegli spazi di discussione alla Camera che non fossero legati a questo provvedimento. Cioè, quindi, i cavilli, i regolamenti. Esatto, dopodiché vorrei che fosse chiaro, noi stiamo applicando alla lettera quello che il regolamento consente, certo. Cioè il regolamento ha un articolo che dice che il giorno dopo i deputati che sono intervenuti il giorno prima nella seduta hanno la possibilità di spiegare il loro pensiero per 5 minuti. Di fare una precisazione, anche a turno ognuno lo ha fatto. Senta, se 5 minuti la moltiplichiamo per 70-80 diventano 6 ore. È certo. Senta, per oggi avete studiato qualcosa, oggi è il giorno dell'approvazione, pare il processo breve con una lunga maratona, avete studiato qualcosa? A parte che se io avessi studiato qualcosa, come lei può immaginare, nonostante la stima che provo nei suoi confronti, non glielo direi. Però detto questo, i tempi mi dica almeno se avete qualcosa se avete un coniglio nel cilindro, non lo so. No. Abbiamo soltanto i tempi che sono finiti e quindi l'unica possibilità che ci rimane è quella per brevi secondi di poter intervenire. Ci sta sicuramente qualcosa che non dipende più direttamente da noi, ma dipende da una maggioranza che, come avrete potuto vedere anche dalla cronaca dei giornali, deve stare da 15 giorni in aula con tutti i ministri, perché se no non è maggioranza. Ci sono 180 emendamenti da votare, vediamo se resistono fino a stasera per votare 180 emendamenti. Senta, ma qualcuno dice, per esempio oggi il Corriere chiede al segretario Bersani del PD, ma è dignitosa un'opposizione così, cioè che fa anche ostruzionismo? È tutto regolamentato dai regolamenti, per l'appunto, ma è dignitoso opporsi così? Ma guardi, non è che il fare ostruzionismo è, come dire, in contrapposizione a tutto quello che poi un partito politico fa. Il Partito Democratico ovviamente sui temi della giustizia, ma anche su tanti altri temi, fa la sua iniziativa politica. È chiaro che nel momento in cui alla Camera, a fronte della famosa riforma epocale, non so se la ricordate, quella delle grandi trasformazioni della giustizia di valore costituzionale che doveva essere portata, e con l'impegno del Ministro della Giustizia a ritirare le leggi ad personam nei confronti di Berlusconi, in attesa di quello proliferano sia alla Camera che al Senato, peraltro in modo contraddittorio, norme e provvedimenti che sono esclusivamente finalizzati agli interessi del Premier. Quindi è chiaro che di fronte a una cosa del genere la battaglia parlamentare, anche dura, secondo me è una logica, ma non è l'unica, cioè non è che questa è l'unica cosa che fa il Partito Democratico. Per concludere, pare memorabile una volta in cui lei si cimentò anche per parlare di ragni. Perché ride? Perché? No, perché è vero, ma ero appena arrivato alla Camera, c'era il segretario dell'ora del partito della Margherita, sì. Boccia, che mi disse: stiamo facendo ostruzionismo, mi tirò un disegno di legge sui ragni. E mi disse: dobbiamo parlare. Io mi ricordai, ma una botta di fortuna, che qualche giorno prima ho letto sul giornale che il presidente Berlusconi ha la fobia dei ragni, e costruì un intervento di mezz'ora per spiegare che questo era un altro provvedimento ad persona. Ma devo dire la verità, che in quell'occasione, meno adesso perché sono un po' più nervosi, ma ci furono applausi e risate anche da parte l'apprezzarono. Cioè la legge ad personam di Berlusconi, perché è aracnofobo, no, questa sarebbe, questa era la sua costruzione. Vabbè, insomma, vedremo oggi se avete studiato qualcosa. Non lo so, se io la definisco senza offesa un rompicoglioni d'aula, lei si offende? No. No, ma non solo d'aula, quindi diciamo anche nella mia vita privata. Va bene. Intanto la ringrazio per essere stato con noi. Non è Roberto Giachetti del Partito Democratico. Vedremo se sarà una giornata in cui ci sarà ostruzionismo, oppure se i tempi contingentati appunto non permetteranno questo e dunque ci sarà l'approvazione. Anche questo succede alla Camera. C'è chi ci chiede, manda un messaggio dicendo: perché non parlate dell'aumento dei finanziamenti ai partiti, che i partiti vogliono? Ma che disattenzione! Vi abbiamo dedicato una mezz'ora ieri, è tutto riascoltabile sul sito di radio24.it. E nel nostro bianco o nero di tra poco, nel nostro sondaggio, invece ci concentriamo ancora sull'Europa, l'immigrazione, l'Italia con le tensioni che ci sono. Vi chiediamo: l'Europa, secondo voi l'Unione Europea sottovaluta il problema dell'immigrazione in Italia? Votate su radio24.it se volete intervenire in diretta. 800 24 0024, tra poco. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:33 minuti. Allora, parliamo di immigrazione, parliamo di Unione Europea, di rapporti, dagli sfoghi del ministro Maroni, ma anche oggi delle novità che sono presenti sui giornali nel nostro sondaggio, nel quale vi chiediamo: l'Unione Europea secondo voi sottovaluta il problema dell'immigrazione in Italia? Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E devo dire che per il 66% dei nostri ascoltatori che stanno votando su radio24.it la risposta è sì. Allora, il ministro Maroni in uno sfogo ha detto: tanto vale allora uscirne da questa Europa se ci lascia così soli. E oggi, insomma, qualcuno della Lega, o meglio ieri, ha fatto qualcosa di più. Il viceministro Castelli, intervenuto in radio a Un Giorno da Pecora, ha detto: per il momento, per ora, non possiamo usare le armi. Ma oggi c'è bufera su Castelli per questa dichiarazione, l'evocazione dell'uso delle armi, forse. C'è anche il Vaticano con il cardinal Bertone, che ha criticato duramente l'Europa. L'Europa ci ha deluso su questo tema. E il presidente della Commissione Europea, Barroso, che dice: effettivamente ci vuole più solidarietà all'Italia. Ne discutiamo con due europarlamentari. Deborah Serracchiani del Partito Democratico, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno, grazie. Saluto invece per la Lega Francesco Speroni. Buongiorno Speroni. Buongiorno a tutti. E voglio anche salutare un deputato tedesco della CDU, il partito del cancelliere Angela Merkel, e anche presidente dell'associazione Amicizia Italia-Germania. Lo ringraziamo perché parla anche un ottimo italiano. Manfred Kolbe, buongiorno. Buongiorno in Italia. Senta, vorrei partire da Speroni. Speroni, vuole per favore, se lo ritiene, dare una condanna delle parole del viceministro Castelli della Lega, oppure anche lei crede, insomma, che questa frase sull'uso forse delle armi, per ora no, ma chissà, è una frase che ci può stare? Ma scusate, in Libia non si stanno usando le armi. E che c'entra la Libia? No, allora, le armi o si possono usare o non si possono usare. Bisogna vedere se si usano bene o si usano male. Noi siamo invasi. C'è gente che viene in Italia senza permesso, violando tutte le regole. Beh, a questo punto bisogna usare tutti i mezzi per respingerli. Anche le armi. Eventualmente anche le armi, se è l'ultima ragione. Ripeto, proprio l'Europa sta usando le armi nello stesso ambiente, in Libia. E non vedo allora perché le armi per uno scopo si possono usare e per quell'altro no. Siamo di fronte a un'invasione. Cioè, a un certo punto, secondo me, Hitler ha sbagliato tutto. Se fosse vissuto ai giorni nostri, avrebbe mandato in giro dei tedeschi coi barconi a invadere il mondo e nessuno avrebbe potuto fermarli perché le ragioni umanitarie eccetera eccetera. Allora noi in Libano stiamo usando le armi, in Libia, noi non stiamo usando le armi in Afghanistan, e perché non dobbiamo usarle per difendere i nostri confini? Ma, lì c'è una guerra, si parla onorevole. Continuamente 150 anni di unità d'Italia, la patria eccetera. Qui si tratta di difendere l'unità, di difendere i confini, i sacri confini della patria, dice, come qualcuno quindi lei dice, dice eventualmente si possono anche utilizzare le armi, cioè che fare, sparare alle navi o mi faccia no, capire fare un blocco navale, non vuol dire solo armi da sparo, io parlo ad esempio della marina militare, cosa abbiamo a fare la marina militare se la marina militare non è capace di fermare un'invasione? Bisogna prenderli e riportarli da dove sono venuti. Questo sì, che però è un'altra cosa. Onorevole Serracchiani, non so, io pensavo di un po' buttare di acqua sul fuoco la dichiarazione del ministro Castelli. Guardi, mi pare che siano troppo alla canna del gas, per cui credo che sia difficile buttare acqua sul fuoco. Sa? Quando si è fatto sempre la propria politica cercando di alimentare le paure, quando finalmente si è chiamati a risolvere i problemi e si dimostra che si è totalmente incompetenti, è difficile. Lei dice, però l'Europa, secondo lei, anche eminenti esponenti europei, il Presidente della Commissione Barroso ha detto, insomma, l'Italia merita più solidarietà. Lei dal punto di vista europeo come la vede da Bruxelles, anche se fa parte dell'opposizione, può fare le critiche che ritiene al governo, però non c'è un atteggiamento... Ma guardi, di lassismo dell'Europa? L'Europa non deve sicuramente lasciare sola l'Italia, e questo è evidente a tutti, siamo stati i primi a dirlo nella Commissione Libertà Civili di cui faccio parte. È chiaro che però in Europa ci si sta da europei, non ci si sta col metodo italiano della furbizia. Starci da europei significa che si ha, essendo noi paese fondatore dell'Europa, tutta la possibilità e la capacità di creare le condizioni per trovare degli accordi politici, per trovare degli accordi politici e dei compromessi, per cercare di far capire all'Europa che c'è necessità di una politica comunitaria dell'integrazione, per far superare le debolezze dell'Europa. Ma se si viene in Europa gridando e mettendosi in un angolo, lei capisce che l'Europa probabilmente non riesce a capire le necessità dell'Italia. Dopodiché bisogna anche badare ai termini che usiamo. L'invasione causata l'onorevole Speroni, stiamo parlando di circa 25.000 persone che sono arrivate nell'arco di 3 mesi. Io ricordo che il 7 marzo del 1991 arrivarono in 20.000 in un solo giorno dall'Albania. Non mi pare che abbiamo avuto la stessa reazione, non gli abbiamo sparato né proponevamo di farlo. Risolto il problema. Riguardo tra l'altro alle cifre, questo mi permette di andare a fare un salto in Germania, appunto dal deputato Manfred Kolbe della CDU, perché la Germania, che ha tenuto un atteggiamento abbastanza duro, mi corregga se sbaglio Kolbe, cioè a dire non è una vera emergenza, pensavamo che la Francia fosse la più dura, poi abbiamo scoperto che anche la Germania è stata più dura, dicendo per esempio noi in passato abbiamo gestito tutta la questione dei profughi in fuga dalle guerre balcaniche e non abbiamo fatto tutti i problemi che state facendo in Italia. La posizione del governo tedesco, Kolbe? Beh, la posizione è un po' del sì e un po' del no. Noi sopportiamo l'Italia in generale perché questo problema dei profughi dall'Africa del Nord è un problema europeo e noi dobbiamo, anche qui abbiamo necessità di una solidarietà europea. Per esempio questi sono profughi economici che non hanno alcun titolo di entrare in Europa e l'Europa deve cercare dei accordi con il nuovo governo della Tunisia per un rimpatrio presto di questi profughi. Qui c'è una necessità della solidarietà europea. Per quanto concerne il caso concreto, crediamo che sia un po' di troppo l'allarme in Italia, perché come già è stato detto si tratta di 25.000 profughi nel giro di 3 mesi e credo che sia stato sbagliato di dare dei permessi temporanei a questi profughi, perché questi profughi non sono turisti e non è legittimo di farli entrare. Ma questi permessi la Germania li considera come questi permessi? Beh, almeno sono contro il spirito di Schengen, diciamo così. Sono contro lo spirito di Schengen. Perché questi permessi li possiamo dare a turisti che hanno un soggiorno limitato e che si sopportano da sé, non li possiamo dare profughi economici. E poi per quanto riguarda le cifre, come già è stato ricordato, negli ultimi vent'anni abbiamo sempre avuto dei problemi di profughi in Europa. Per esempio la Germania ha accolto negli anni 90 più di 500.000 dai Balcani, che è stato un sforzo molto più certo, grande. Ricordiamo 500.000. Ci vuole la solidarietà con l'Italia per stipulare degli accordi con gli stati nordafricani per un rapido rimpatrio di questi profughi, ma nel caso concreto non abbiamo ancora il tsunami umano. Ecco, quelle invasione, esatto, l'esodo biblico. Su questo, onorevole Speroni, cioè l'accusa che viene fatta sia da Serracchiani o dal deputato tedesco Manfred Kolbe è dire questo: si sta esagerando una situazione che sicuramente c'è, però questi termini invasione, ha sentito che le cifre, per esempio in Germania, ne hanno affrontate ben più alte negli anni passati, 500.000 dai Balcani, rispetto alle decine di migliaia italiane non è la stessa cosa, Speroni. Come dire che rubare 1.000 euro è meno che rubare 1.000.000 di euro, cioè o la cosa è lecita o la cosa è illecita. Tornando alle armi, io ricordo che molto spesso quando i nostri pescherecci si avvicinano alle coste proprio della Tunisia vengono mitragliati se non si fermano, se non rispettano le regole. Seguendo il principio, però onorevole, gente che va a lavorare. Mi scusi, seguendo il suo principio della questione del rubare, non è che se uno mi spara allora sbagliando gli sparo anch'io, voglio dire. No, non sbagliano i tunisini. Le acque territoriali di un paese sovrano è lecito utilizzare le armi, questo è diritto internazionale. Sì, ma non è un'armata che ci invade, cioè per conquistare il paese. Ma cosa vuol dire l'armata? Ripeto, i nostri pescherecci quando vanno in Tunisia vengono mitragliati e i pescherecci non sono un'armata, non sono motovedette, non sono incrociatori, cacciatorpedinieri, sono pescherecci. È una cosa che ha fatto anche Zapatero. Cioè quando viene violata la sovranità, il territorio di un paese, è lecito usare le armi. Poi se opportuno o meno lo decide il governo, ma penso che ognuno abbia il potere, il dovere, il diritto di ricordare quali sono le norme internazionali. E ripeto, proprio lì vicino l'Europa, compresa l'Italia, sta usando le armi. Sì, sì. Perché in Libia si sono usate le armi. Vabbè, però, nel rispetto del diritto. Lei però fa questo confronto effettivamente, ecco, su questo guardi, è una guerra in Libia. Di 10.000, di 50.000 o di 100.000, non conta. Sempre di invasione si tratta. La Germania ha ritenuto di risolverla, ma era un'altra cosa. Perché intanto c'era la guerra nei Balcani, anche in Libia. Si sapeva che quelli che arrivavano stavano lì temporaneamente e poi sarebbero rientrati. Onorevole, anche in Libia c'è appunto la guerra. Non sono qui a chiedere asilo politico, perché in Tunisia sta nascendo la democrazia. Quando nasce una democrazia non si scappa. Quando è venuto il 25 aprile in Italia nel 1945 ed è venuta la liberazione, non è scappato nessuno tranne qualche fascista. Ma voglio dire, ma infatti la questione dei rimandarli in Tunisia è la procedura che credo anche l'onorevole Kolbe, forse anche l'onorevole Serracchiani, ma chi glielo chiederò dopo il traffico, è la procedura, diciamo, che prevede la legge. E quello che si contesta è qui il fatto che lei dica l'utilizzo anche delle armi come caso estremo se uno viola le acque internazionali. Andiamo alle informazioni sul traffico e poi rientriamo. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora il 68%, un paio di punti percentuale cresciuta, dice sì dei nostri ascoltatori. Lì l'Unione Europea sta sottovalutando questo problema di immigrazione. Vorrei sentire Vincenzo dalla provincia di Modena. Buongiorno. Buongiorno. Che ne pensa? Vabbè, io penso che l'Europa lo sta sottovalutando il problema dell'immigrazione e credo che dovrebbe lasciare un po' più autonomia allo Stato italiano, per esempio per quanto riguarda la decisione di fare o no delle sanatorie. Io lavoro nel campo delle produzioni nell'ambito cinese. L'autonomia c'è, se lo stesso, il governo volesse fare una sanatoria lo potrebbe fare. I permessi a livello europeo, però prima. Sì, i permessi li ha dati, però che poi ci sono anche altri paesi in Europa che possono dire, come ci ha detto l'onorevole Kolbe qui da Germania, per noi questi permessi violano il principio di Schengen, quindi noi non li accettiamo. Il problema è che qua in Italia abbiamo tanti stranieri che lavorano già, purtroppo lavorano in nero, e non riescono a regolarizzarsi perché non possono accedere a sanatorie, e loro però stanno già lavorando, vengono sfruttati da magari connazionali. Se l'Italia facesse una sanatoria del genere, ma a quelli che possono garantirsi un reddito, sto parlando, no? A chi non ha né arte né parte, questo permetterebbe un gettito nelle casse dell'INPS. Permetterebbe a queste persone di lavorare e di emergere da una condizione la di via, insomma, lei suggerisce la via della sanatoria. Vorrei, onorevole Serracchiani, lei che ne pensa? La via della sanatoria è possibile? Oppure, visto che la sinistra viene spesso accusata di buonismo su questo fatto, gli irregolari che arrivano nel nostro paese devono essere riaccompagnati in Tunisia? In Tunisia o da dove provengono? Ma guardi che ci sono delle regole, soltanto che chi è al governo fa finta che non esistano. Noi, guardi, il problema, lo diceva prima l'onorevole Speroni o mi pare l'onorevole Kolbe, sono degli immigrati di tipo economico, che significa che c'è una difficoltà economica nel paese d'origine e questi molto probabilmente torneranno indietro appena le condizioni lo permetteranno. Quello che veniva chiesto e viene chiesto all'Italia è di identificarli, accertare che non siano persone che hanno già problemi con la giustizia e che quindi vanno rimpatriati immediatamente, che è una questione diversa. Verificare che le condizioni di queste persone permettano appunto di poterle rimpatriare e fare per questo degli accordi con i paesi di origine, sempre sotto l'egida europea naturalmente, e per i profughi applicare una direttiva completamente diversa. Noi che cosa abbiamo fatto? O gli spariamo perché non sappiamo come accoglierli, che cosa fare, non siamo pronti e non siamo preparati e vogliamo creare le condizioni dell'emergenza, oppure facciamo la sanatoria, che è questo permesso temporaneo, che è perfettamente possibile che l'Italia faccia, che ha deciso di fare e che fa per tutti quelli arrivati fino alle ore 24 del 5 aprile di quest'anno, ma che non è naturalmente una soluzione, perché il ministro Maroni l'ha fatta non per fare quello che diceva l'ascoltatore, ma l'ha fatta perché queste persone potessero girare in Europa, e l'Europa ha detto di no. L'Europa discutiamo sulla solidarietà tutto quello che vuole, però c'è una direttiva europea, la 55 del 2001, che permette di fare proprio quel percorso che dice il ministro Maroni, ma che richiede dei requisiti, cioè dei numeri maggiori, richiede comunque la capacità di un paese di rispondere a questa emergenza e chiedere all'Europa di intervenire. Questo significa però che hai anche un paese che ha spessore politico, credibilità e autorevolezza, che conta in Europa e che dialoga con l'Europa. Noi invece ormai siamo delle comparse. Quando sei una comparsa e non sei più protagonista, è difficile anche soltanto che ti diano una parte in un film. Vediamo, Manfred Kolbe, l'idea dell'Italia è l'idea di una comparsa vista dall'Europa, vista dalla Germania, cioè di non un attore principale europeo, ma di un attore secondario? No, decisamente no, l'Italia non è una comparsa, l'Italia è fondatrice dell'Europa Unita, dei Trattati di Roma, l'Italia è un membro importantissimo dell'Europa e per questo anche, mi ripeto, deve essere la solidarietà europea con l'Italia per un rapido rimpatrio di questi profughi economici, però senza sparare, anche questo lo dico chiaramente. Ci deve essere... Dobbiamo avere un rapido rimpatrio di questi profughi, ma d'altro canto l'Italia non è ultra obbligato al momento. Le do un'altra cifra, l'accoglienza di profughi politici nell'anno scorso, cioè nel 2010, la Francia ha riconosciuto 48.000 profughi politici, la Germania 41.000, il Belgio, paese molto più piccolo dell'Italia, 20.000 profughi politici e l'Italia solo 8.000, cioè... C'è la solidarietà con l'Italia, ma al momento l'Italia non è obbligata oltre il possibile. Sì. Lei crede davvero, perché lo sfogo del ministro Maroni c'è stato proprio nell'incontro, dopo l'incontro anche con i ministri degli interni europei, tra cui anche col ministro dell'interno tedesco. Quello sia stato uno sfogo, cioè usciamo dall'Europa, oppure è un problema? Le faccio un paragone. Sì. Anche noi in Germania, certe volte, se parliamo dell'euro, abbiamo certi sfoghi, certo. La Germania paga l'euro carissimo, cioè nonostante questo sopportiamo l'euro perché non c'è alternativa all'unità europea. Nel mondo globale del XXI secolo ciascun Stato europeo non è più attore sulla scena mondiale, solo l'Europa Unita è attore attivo sulla scena mondiale. Non credo che ci sia l'alternativa. Come oggi scrive Sergio Romano, tra l'altro nell'editoriale che vi segnalo sul Corriere della Sera. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io non capisco perché interpelliate Speroni, che non ha dato grandi esempi di cultura storica come minimo, oltre che italiana. Perché è un eurodeputato della Lega Nord. Sì, d'accordo. Che problema c'è a chiamare Speroni? Di più autorevoli. Infatti Maroni, pur essendo, diciamo, non essendo io un leghista, ritengo che stia operando molto bene. Comunque, ciò detto, bisognerebbe che Speroni, sì. Capisse la differenza tra guerra e un attacco armato. Allora, in Libia c'è la guerra, tra forze armate, cioè con delle armi in mano. Nel caso dei barconi non sono armi. No, ma infatti quello è l'obiezione che gli ho fatto io, ma Speroni vuol rispondere all'ascoltatore, abbiamo 30 secondi, però insomma, io rivendicando il fatto di averla invitata, non mi vergogno di nulla. Dica. Allora, se uno viola le regole, a un certo punto io devo reagire per ristabilire le regole, ma guardi che basta che uno sia armato o non armato. Però uno, onorevole, mi scusi onorevole, ma lei non reagisco perché non ha le armi. No, ma lei insiste su questo punto, ma il governo appunto sta facendo i rimpatri per chi è clandestino, cioè questa è la risposta all'arrivo, non le armi, ecco, questa è l'obiezione che le facciamo. Ripeto, quando i nostri pescherecci disarmati vanno in Tunisia, vengono mitragliati. E quindi noi dovremmo mitragliare. Lo stesso metodo, usiamo nel rispetto delle norme internazionali. Quindi dovremmo mitragliare se uno arriva clandestino. Come facciamo a sapere se invece a bordo ci sono 200 profughi che hanno dei diritti? E questo, onorevole Speroni, che le chiedo. Cioè, se arriva un barcone con 200 persone a bordo, come distinguiamo un potenziale profugo con tutti i diritti da un clandestino? Onorevole. Non ce l'ha scritto in fronte, ma non c'è una situazione in Tunisia che giustifichi l'arrivo di profughi. Perché, come dire, se venissero da Malta, lei dice che sono profughi? No. Se venissero, che so io, dal Canada, direbbe che sono profughi. Ma a volte partono, ma io qui devo chiudere, dalla Tunisia dopo un lungo viaggio, dall'Eritrea, dalla Somalia, perché dalla Tunisia si parte, a volte muoiono anche in mare. Quelli lì magari erano profughi. In ogni caso, io ringrazio l'onorevole Francesco Speroni, eurodeputato della Lega, così come Deborah Serracchiani del Partito Democratico e Manfred Kolbe della CDU tedesca per essere stati con noi, con Alessandro Longone e Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Domani e dopodomani io non ci sono, ci sarà Laura Bettini, c'è 24 mattino e io mi ripresenterò lunedì, ma insomma, ciao a tutti e a Oscar Giannino.